I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Parliamo di olio, o meglio dell'olio tunisino, visto che oggi la Commissione Europea, cambiando d'urgenza il suo ordine del giorno, si appresta a votare il via libera all'importazione nell'Unione Europea di 35.000 tonnellate l'anno di olio tunisino per quest'anno e per l'anno prossimo, senza che questo vada a pagare dazi, e in aggiunta le 56.000 tonnellate l'anno già previste dall'accordo tra Bruxelles e Tunisi. Insorgono le opposizioni italiane, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega su tutte, accusando il governo di non avere saputo difendere gli interessi del nostro paese. Ma non è contento nemmeno il partito di maggioranza, che pure ha ottenuto, va detto, grazie alla posizione italiana, qualche miglioria. Non saranno più ripetibili queste importazioni straordinarie e soprattutto c'è l'obbligo di tracciabilità. Ma la domanda di fondo resta: intanto la fretta inusuale della Commissione europea, ma soprattutto perché, visto che questo accordo risponde alle esigenze, alla promessa di aiutare il governo tunisino dopo gli attentati del Bardo nella sua lotta contro l'ISIS, aiutandolo anche economicamente, perché, dicevamo, non si è scelta un'altra strada, un aiuto diretto alle imprese tunisine? Agevolando infatti un'extra quota di importazione di olio tunisino, si darà sì una mano agli agricoltori di quel paese, ma si aiutano soprattutto le imprese, e dispiace ricordare, spagnole ma anche italiane, che potranno trasformare il loro olio in italiano o spagnolo senza nemmeno pagare i dazi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Ci sono vari aspetti che meritano attenzione nelle mosse annunciate oggi dalla BCE, dall'abbassamento di tutti i tassi all'annuncio che le operazioni di immissione di liquidità, il famoso bazooka, saranno aumentate da 60 a 80 miliardi al mese. Ma c'è una novità, per così dire, epocale. Mario Draghi ha annunciato altri 4 piani di TLTRO, ovvero i prestiti alle banche che erogano finanziamenti a famiglie e imprese. Finora gli sforzi di emissione di liquidità nel sistema si sono fermati alle tesorerie delle banche, che hanno parcheggiato poi le risorse di nuovo presso la BCE per comprare titoli di Stato. Ora, per far invertire questa tendenza, la Banca Centrale Europea fa una mossa del tutto inedita nella storia delle politiche monetarie. Di fatto la BCE pagherà le banche per finanziare le famiglie e le imprese. Gli istituti di credito potranno prendere a prestito fino al 30% dei crediti all'economia reale in essere a fine gennaio, a un tasso fisso per 4 anni che, nella peggiore delle ipotesi e senza penali, sarà pari al tasso repo, che oggi è a zero, ma comunque migliorabile fino al meno 0,4% qualora l'incremento degli impieghi delle banche superi alcune soglie prestabilite dalla BCE. In sostanza, le banche preleveranno a tasso zero o negativo risorse che destineranno al sistema economico, venendo remunerate con tassi ben superiori. È un modo per garantire margini, per così dire, speculativi al finanziamento all'economia reale e non di carta. Speriamo che funzioni. Per ora i mercati hanno brindato e le banche, i titoli delle banche sono schizzati. Se non è una rivoluzione, questa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. We'll be right back.